di essere consolati. Frutto di un'innocenza remota, imbastardita, stretta di carne accattivante. Frutto di un'innocenza remota, imbastardita, stretta di carne accattivante. Nessuno può permettersi rimpianti, nessuno può permettersi rimpianti, nessuno può permettersi rimpianti mai. Sanno i sogni, sanno i sogni.